Capitolo 24. Münster, 13 gennaio 1534. Il nome latino, Monasterium, lascia pensare a un luogo di pace e lontananza dal mondo. Münster, al contrario, chiede d'essere ferrata col fuoco. 9 porte per accedere. Su ogni porta 3 cannoni. Pareti spesse, stretti passaggi. 4 torrioni bassi e massicci escono verso i punti cardinali a stringere in avamposto la città. Mura interamente percorribili da 3 uomini affiancati la cingono tutta. L'acqua del fossato è il corso deviato del fiume Aa, che taglia in 2 la città. Il fossato è doppio: acqua nera davanti alla prima cinta di mura e acqua nera dietro, scavalcata da piccoli ponti che accedono alla seconda cinta, più bassa, marcata da torri tozze. Inespugnabile. Fratelli e sorelle, i viandanti che aspettavamo sono giunti. Enoch ed Elia attraversano il mondo e arrivano a Münster per annunciare che l'ora è imminente, che i ricchi hanno i giorni contati e che il potere del vescovo sarà cancellato per sempre. Oggi sappiamo con certezza che ciò che ci attende è libertà e giustizia. Giustizia per noi, fratelli e sorelle. Giustizia per chi viene tenuto in servitù, costretto a lavorare per un salario da fame, per chi ha fede e vede la casa del Signore imbrattata di immagini e gli infanti venire lavati con l'acqua benedetta, come cani, sotto una fontana. Ieri ho domandato a un pargolo di 5 anni chi fosse Gesù. Sapete cosa ha risposto? Una statua. Questo ha detto, una statua. Per la sua piccola mente, Cristo non è altro che l'idolo davanti al quale i genitori lo costringono a dire le preghiere prima di dormire. Per i papisti questa è la fede. Prima imparare a venerare e obbedire, poi capire e credere. Che razza di fede può essere questa? E che inutile supplizio per i bambini. Ma li vogliono battezzare, sì, fratelli, perché temono che senza il battesimo lo Spirito Santo non discenda su di loro. In questo modo l'atto della fede diventa secondario. Le coscienze vengono lavate con l'acqua benedetta prima che si possano compiere peccati. E così il loro battesimo copre le nefandezze più innominabili. Il trarre lucro dal lavoro del prossimo, l'accumulare i possessi, le proprietà delle terre che voi coltivate, dei telai che voi fate funzionare. I vecchi credenti non vogliono permettere a nessuno di scegliere quale vita condurre. Vogliono che voi lavoriate per loro e siate contenti della fede che vi consegnano i dottori. La loro è una fede di condanna, è la fede spacciataci dall'anticristo. Ma noi, fratelli, noi vogliamo redenzione. Noi vogliamo libertà e giustizia per tutti. Noi vogliamo leggere liberamente la parola del Signore e liberamente scegliere chi deve parlarci dal pulpito e chi rappresentarci in consiglio. Chi decideva, infatti, dei destini della città prima che lo scacciassimo a pedate? Il vescovo. E chi decide ora? I ricchi, i notabili borghigiani, illustri ammiratori di Lutero, solo perché la sua dottrina consente loro di resistere al vescovo. E voi, fratelli e sorelle, voi che fate vivere questa città, non potete mettere parola nelle loro sentenze. Voi dovete soltanto ubbidire, come sbraita lo stesso Lutero dalla sua tana principesca. I vecchi credenti vengono a dirci che i buoni cristiani non possono occuparsi del mondo, che devono coltivare la loro fede in privato, seguitando a subire in silenzio i soprusi, perché tutti siamo peccatori condannati a espiare. Ma ecco qui i messaggeri di speranza. Ecco chi viene ad annunciarci la fine del vecchio cielo e della vecchia terra, affinché noi ne pretendiamo altri. Questi 2 uomini hanno raccolto il nostro grido d'indignazione e sono venuti a portare testimonianza, come Enoch ed Elia, a dirci che non siamo soli, che il tempo è giunto. I potenti della terra saranno spodestati, i loro scranni cadranno per mano del Signore. Cristo non viene a portare la pace, ma la spada. Le porte sono ora aperte per coloro che sapranno usare. Se penseranno di schiacciarci con un colpo di spada, con la spada pareremo quel colpo, per restituirne 100. Bernard Rothman. Ho davanti il coraggio, la rabbia, i coglioni, la forza immensa di una fede che non incontravo da molto tempo. Magister, se fossi qui ora, se fosse finita diversamente, forse avresti la sensazione che non è andato tutto perduto, che qualcosa, strisciando e risalendo sotto la cenere, è sopravvissuto e concima una nuova terra. 100, 200? Ho disimparato a contare le folle. Tu me lo avevi insegnato, l'ho dimenticato. Ho dimenticato la forza, Magister, e tu non puoi insegnarmi più niente. Sono un altro. Forse un figlio di puttana disilluso e rabbioso. Eppure, per la prima volta dopo tanti anni, nel posto giusto. Qui dovevamo arrivare, da nessun'altra parte, a questa verità. Non c'è fede senza conflitto. Così è sempre stato. E anche se della mia fede non mi importa più niente, oggi torna a bruciare qualcosa che avevo perso nella piana di maggio. È la consapevolezza che mi avevi dato. Non libereremo mai i nostri spiriti senza liberare i nostri corpi. E se non ci riusciremo, di questi corpi non sapremo che farcene. Sono tempi in cui la miseria e la forca non sono poi tanto diverse. E allora vale ancora la pena spezzare il giogo e accettare quanto il destino ci consegnerà alla fine. Combatteremo ancora, di nuovo, o moriremo provandoci. Tocca a Jan di Leyda adesso. Pronto, deciso. Una platea per lui. Lo sguardo scivola nel vuoto sopra le teste. Non sbagliare, Jan. È il tuo momento. Posa d'attore, come al solito eccessiva, ridicola. Vomita fuori parole assurde che acquistano senso poco alla volta nella mente e trovano una sequenza particolare. Colpiscono nel segno. Saranno i movimenti, i gesti, gli occhi strabuzzati e un istante dopo ammaglianti. Sarà la bellezza, la giovinezza, che ne so. So che funziona. Jan cammina per queste vie, senza meta, come un naufrago alla deriva, e cerca un segno, un indizio, che faccia capire se proprio qui troverà ciò che cerca. Il tono sale rapido. Stupido coglione, figlio di una cagna di Leyda. Il segno non è intorno a te, non è nei muri, nei mattoni, nella calce, nei ciotoli. No, non troverai ciò che vai cercando. Il segno è la ricerca stessa. Il segno sei tu che arranchi nel fango delle strade. Siete voi. Noi che siamo in cerca. Noi che siamo l'adesso, il già e non ancora. I vecchi sono fermi, sono già stati. Vecchi credenti già morti. Il mattone della cattedrale non dice nulla. I vostri sguardi, invece, dicono che Dio è qui. Dio è qui adesso. Il suo spirito è tra noi, in questa giovinezza, in queste braccia, questi muscoli, gambe, seni, occhi. Qualcosa di immenso si prospetta sulla soglia della vita, sporca, maledetta, insulsa vita di merda che credevi una scorreggia silenziosa nel piano divino. E invece no. Dio farà di te un soldato, ascoltalo. Egli ti chiama a un'impresa, ascoltalo. Ascoltalo dentro. Ecco, lo senti chiamarti nell'appello, per nome, per l'ultima battaglia. Jan, ascolta, maledetto verme. Gli occhi si stringono improvvisamente. Due fessure azzurre. Volano rasenti alle teste. Planano. Poi si alzano di nuovo. In un sibilo. Sì, tu, buffone cialtrone puttaniere. Perché è di questo che stiamo parlando, che ti credi? Pensavi di lottare per uno straccio di carta imbrattata dalle tue libertà civiche? All'inferno. Dio ti sta parlando di ben altro. Non di Munster, no, non di queste case, queste pietre, queste strade, non di tutto questo come è ora, ma di quello che diventa, di voi e di me, nella città, fratelli. Dio non chiede di combattere per un trattato, non per una pace equa, ma di combattere per la nuova Gerusalemme. Cielo e terra nuovi, un mondo, il nostro nuovo mondo al di qua dell'oceano. Panico e di nuovo stupore negli sguardi. Questa è la promessa che bandisce i ciarlatani, gli indecisi, gli inetti, la feccia sorda alla chiamata. Che ci mollino ora e raggiungano il cimitero della vecchia fede. Noi edificheremo la piramide di fuoco, noi fonderemo la nuova Gerusalemme. Da soli, ti chiedi? No, Jan, figlio d'un cane. Adesso pensi che quelle mani sporche e callose, che hanno sempre saputo costruire soltanto castelli di merda, non riusciranno mai a impastare la malta celeste? Ti sbagli, buffone giollare mentecatto. La promessa è chiara. Io manderò a voi un profeta che vi guiderà in battaglia, raccoglierà la vostra forza per sputarla in faccia ai miei nemici. Ascoltate, spianate la strada al profeta, che oggi ha inviato due suoi emissari, Jan di Leyda e Gerd al Pozzo, ad accendere la scintilla. Quando il profeta arriverà, non saremo più soli e Munster sarà un grande fuoco, un'enorme, gigantesca piramide di fuoco che si innalza contro il cielo, squarcia le nubi e costruisce la scala verso il regno. Io lo so. Il nome gela già il sangue dei potenti, dei ricchi e degli empi. Corrono a rintanarsi sotto le coperte di broccato appena lo sentono risuonare tra le fila dei miserabili. Pronunciano editti, spiccano taglie, stupidi giganti d'argilla, ignari che egli è ovunque, che i suoi apostoli hanno raggiunto le città, i villaggi, portando l'annuncio della fine del tempo. Yammattis è quel nome, fratelli. Egli è il vero Enoch, colui che giungerà al compimento del tempo per inaugurare la città celeste. Dopo di noi, Mattis il Grande. Ammutoliti, imbarazzati, zitti. L'ansia si è diffusa tra le fila mentre Jan parlava. Un disagio straniante che spinge la gente a guardarsi bene in faccia, per riconoscersi, per sincerarsi d'essere sempre gli stessi. Borghigiani, operai, artigiani, madre, facce ruvide, mani forti. Giovani tutti quanti, poiché la miseria non dà il tempo di invecchiare. Sono davvero venuto a dire che da qualche parte esiste ancora la speranza del riscatto e del regno? La bellezza matura di Rothman, il loro predicatore, e i 25 anni di Bockelson sussurrano alle loro orecchie che è possibile. Un uomo corpulento, pancia di birra e spalle possenti abbracciano Jan di Leida, baciandolo sulla barba. La magrezza di Rothman e la sua voce suadente, alleate alla mole d'orso del rappresentante delle gilde artigiane di Munster, Bern Crimper Dolling, conciatore e sarto. Sale sul tavolo che ci sorregge con scricchiolii preoccupanti. Il benvenuto agli apostoli del grande Mattis da parte di tutta la comunità dei fratelli di Munster. Voi, qui presenti, racconterete questa giornata ai vostri nipoti, perché questo è l'inizio di tutto. Dio ha posato lo sguardo sulla nostra città di Munster e ha deciso. È da qui che tutto avrà principio. Noi abbiamo cominciato la lotta, noi la porteremo a termine. E state certi che non sarà facile. Dovremo resistere al vescovo, dovremo strappare il potere dalle mani dei notabili, dovremo sudare e forse anche versare il nostro sangue in questa impresa. Ma il momento è giunto, non si potrà temporeggiare a lungo. Ecco perché dico, chi non se la sente, ci lasci ora e se ne vada all'inferno. Amen. Un solo clangore di pugni alzati, battere di mani e arnesi da lavoro che cozzano. Il tuo nome viaggia sulle ali del vento, Bernard Rothman, il predicatore degli oppressi. Ride, suadente, sincero, con un modo di muovere le mani e il corpo che accattiva simpatia. Non saprei dire se sia un atteggiamento voluto o naturale, ma sono già stato informato delle voci che circolano a proposito dell'irresistibile ascendente di Rothman sulle signore di Münster. Dicono che più di un marito vorrebbe vederlo penzolare da una forca. E non per questioni di fede. Pare che le mogli trovino proprio irresistibili i suoi sermoni e si trattengono a lungo dopo le funzioni per discuterli in privato con il predicatore. Del resto, non è la presenza a mancargli. Non dimostra affatto i suoi 40 anni. Il nome di Mattis ha fatto altrettanta strada, se non di più. Lo attendiamo con ansia. Arriverà presto. Per noi è importante che vi incontriate. Annuisce, mentre mi offre da bere. C'è moltissimo da fare. Hai visto? Siamo saldi, ma ancora pochi. Le cose devono essere condotte a nostro favore, giorno per giorno. Vi siete contati? Mi offre una sediaccia tarlata, unico mobilio della stanza in cui alloggia, oltre la branda di vimini. È difficile vagliare le forze effettive su cui possiamo contare. La situazione è incerta. Il vescovo, von Waldeck, se l'è squagliata non appena le cose in città hanno cominciato a pendere dalla parte protestante. E adesso se ne sta a poche miglia da qui a confabulare coi suoi feudatari. I cattolici stanno nascosti, se la fanno sotto, in attesa che il porco rientri, possibilmente armato, e faccia piazza pulita di noi altri battisti e di tutti i luterani. E perché non lo fa? Perché sa che se lo facesse risveglierebbe lo spirito municipale di Munster, equalizzerebbe tutti contro se stesso. La città non vuole tornare a essere un suo possesso personale. Un sorriso. Qualcosa di buono l'abbiamo fatto, devono riconoscercelo. Von Waldeck è furbo, amico mio, molto furbo. Non bisogna commettere l'errore di sottovalutarlo o pensare che sia fuori dai giochi. Resta il nostro maggior nemico. Comincio a capire. E dentro le mura? Si accende. I luterani e i cattolici fanno comunella per osteggiare il nostro successo presso il popolo, gli operai e gli artigiani di Crimper Dolling. Quasi tutti i grandi mercanti che votano per il consiglio sono luterani e hanno eletto borgomastri due dei loro, Judenfeld e Tilbeck. Judenfeld è un infido, un senza palle, che ha paura del vescovo come del demonio. Tilbeck sembra avere un occhio di riguardo per noi. Farebbe di tutto, pur di non far rientrare in città i vescovili. Ma nemmeno di lui ci si può fidare troppo. Il popolino pende dalla nostra parte e questo li spaventa. Hanno paura di essere spodestati e fanno bene ad averne. A loro volta però non si fidano dei cattolici perché temono che quelli regalino la città al vescovo. Alza le spalle. Come vedi la situazione è tutt'altro che definita. Dobbiamo giocare su due fronti. Il vescovo là fuori con le sue spie in città e luterani dentro, suoi avversari ma non certo amici nostri. Finora siamo riusciti a batterli ogni volta che hanno cercato di buttarci fuori. La popolazione ci ha difesi è la nostra forza. Il popolo, sì. Le tue parole di oggi mi hanno ricordato un uomo che ho conosciuto anni fa, quando avevo più o meno l'età di Jan. Ho combattuto per quelle parole e ti confesso che non credevo che l'avrei fatto di nuovo. Vuole essere un complimento? Penso di sì, ma sappi che allora persi tutto. Uno sguardo comprensivo. Capisco. Hai paura? L'apostolo del grande Mattis teme di essere sconfitto una seconda volta? No, non è questo. Volevo soltanto dire che devi stare attento, essere prudente. Passa una mano tra i capelli e aggiusta le pieghe della veste, un tessuto povero, portato con incredibile eleganza. Lo so, ma adesso ho degli ottimi alleati al mio fianco. Riesce sempre a lusingarti. Jan di Leida ha parlato col fuoco nelle vene. Ridacchio. Jan è un pazzo, un colossale cialtrone, un grande attore, un puttaniere di successo. Ma ci sa fare altro che. È importante averlo con noi. L'ho visto all'opera. Quando vuole, è una vera macchina da guerra. Questa volta ridiamo insieme.